Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci muoveremo tra prevenzione e gestione delle emergenze questa settimana dedicata alle città nella tempesta. E quando si parla di gestione dell'emergenza, tutti sappiamo l'importanza che nel momento critico assume la circolazione di informazioni puntuali. Sulle vie di comunicazione rimaste aperte, su quelle chiuse, sulle aree sicure da raggiungere, sui punti di assistenza. E oggi, come abbiamo ricordato tante altre volte qui a Smart City, le possibilità di dare informazioni tempestive e personalizzate ai cittadini si sono moltiplicate grazie a dispositivi come smartphone e tablet, una opportunità che non è rimasta inosservata. Chiara Albicocco ne ha parlato con Titti Postiglione, responsabile di comunicazione, formazione e volontariato della Protezione Civile. Sentiamo. Perché un cittadino diventi in qualche modo anche lui attore in una situazione di emergenza, ossia sappia come comportarsi, sappia quali comportamenti assumere, a chi rivolgersi, questo rapporto va costruito in tempo di pace, come diciamo noi. Quindi una comunicazione in emergenza è tanto più efficace quanto più la si è costruita prima che l'emergenza accade. E su questo dobbiamo lavorare ancora tanto. Ecco, ed è da un paio d'anni, mi dica se sbaglio, che le nuove tecnologie, i social media in particolare, Facebook e Twitter, se ne è parlato tanto, hanno un ruolo molto importante, fondamentale. Ecco, dalla Protezione Civile state facendo qualcosa? È cambiato in qualche modo il modo di comunicare o cambierà? State pensando di utilizzarlo voi stessi? Sicuramente sì, nel senso che in qualche modo avere altri strumenti a disposizione per fare comunicazione è sicuramente un'opportunità che non si può perdere. Nella convinzione però che non ci può essere una sostituzione totale. È inimmaginabile credere che da un giorno all'altro si passi tutti ai social network dimenticando quelli che sono i canali ordinari di comunicazione. Ecco, potrebbe essere un efficace strumento aggiuntivo, giustamente. Assolutamente. Come si sta su questo muovendo la Protezione Civile? Come sapete, nel nostro paese la prima autorità di Protezione Civile è il sindaco del proprio comune. Noi come Dipartimento Nazionale, che siamo un po' la struttura che fa poi il coordinamento di tutto il sistema, noi stiamo sicuramente lavorando affinché si possa dare il quadro nazionale. Però a fronte di situazioni di emergenze che stanno per verificarsi o si sono verificate, quello che serve è l'informazione puntuale. Ci fa qualche esempio di qualche esperienza? Chiaramente sono strettamente collegate alle amministrazioni comunali, perché appunto, come ci diceva, la Protezione Civile ha questi referenti. Allora, cominciano ad essere numerosi, devo dire la verità, nel senso che peraltro di recente abbiamo fatto proprio un seminario, un workshop di approfondimento su questi temi, ed è stata una buona iniziativa perché ha visto un'ampia partecipazione anche di realtà locali. Per esempio ci sono comuni della regione toscana, in particolare della provincia di Lucca, dell'area della Versilia, ma non solo, che stanno sviluppando magari come unione di comuni, quindi non come singole municipalità, ma mettendo insieme delle realtà limitrofe, delle vere e proprie applicazioni per smartphone che hanno proprio questa funzione, quella di avvicinare il cittadino alla conoscenza del rischio, magari attraverso un modo semplice quale può essere un'applicazione, dargli dei contenuti fondamentali su uno strumento straordinario che abbiamo in Protezione Civile, che si chiama piano di emergenza, che funziona se lo si conosce prima che l'emergenza avviene. Certo. E quindi attraverso queste applicazioni, per esempio, al cittadino gli si danno indicazioni su quali sono le aree sicure da raggiungere in caso di terremoto o in caso di alluvione, quali sono i comportamenti da adottare, ma anche magari fornire delle allerte laddove i rischi sono prevedibili. Un comune che sta lavorando tantissimo sulla comunicazione di emergenza e sulla comunicazione preventiva è il comune di Genova, ma ce ne sono di realtà importanti anche al sud. È sicuramente un momento fertile per studiare nuove metodologie. Ho sentito anche di esempi in cui c'è la possibilità del cittadino di inviare il proprio numero di telefono con appunto la possibilità di essere allertato attraverso l'SMS, che ci sembra ormai quasi uno strumento obsoleto, invece in questi casi potrebbe essere quanto mai utile. Sì, lo confermo assolutamente, anche perché poi è uno strumento che, contrariamente ai social media, che ancora vedono tutto sommato una fascia relativamente ristretta di persone, sicuramente non quelle ad esempio di una certa età, l'SMS ormai è entrato anche nella vita ordinaria dei nonni magari, sì, e quindi infatti è sicuramente uno strumento che riesce a permeare di più più le comunità per intero. Ci fermiamo qui, torniamo su questo argomento giovedì con la protezione civile 2.0 che sta cercando di progettare l'Europa. Domani invece parliamo di come Rotterdam si è attrezzata contro le precipitazioni estreme. Buona serata.